un enigma. Dite amici. Ed entrate. Qual è la parola elfica per amici? Mellon. Fuoco alle polveri. Radio Bomba. E buonasera e benvenuti alla 25esima puntata di Fuoco alle Polveri. Eccoci. Ciao Rurrenzo. Ciao. Come va? A parte il nome che mi hai dato, bene. Rurrenzo? Orrendo. Orrenzo. E stanco? Un po'. Abbiamo passato 4 giorni di diretta continua da quel del Festival di Letteratura Sociale, incredibole. Sì. Infatti oggi un po' parleremo anche di quello. Esatto, certo. Mandiamo anche qualche contenuto che abbiamo prontamente registrato. Exactly. 25 come la 25esima ora. Ho scelto questo, bello, no? Di Spike Lee, citazione al film, tutto quello che potrà andare storto andrà storto. Giusto. Ma dimmi. No, niente, non mi ricordavo. Pensavo tu facessi un'altra cosa. Come 25, come. Oggi avevo iniziato a blaterare qualcosa e non mi ricordo già più, ma mi aveva incuriosito. Ho trovato un sito incredibile. Come si chiamava? Si chiamava tipo tutto dall'8.org. Sì. Diceva che il 25 è il numero delle agitazioni, dei cortei, della disobbedienza. Però anche dello scippo, anche del furto, dello scippo, dello stupro. Sì, ma questa è nella tombola napoletana. Che cazzo, non lo so, tu lo sai? No, non lo so. Ho trovato questo sito, ho detto vabbè, ciao. 25 come le nozze d'argento, mi viene da pensare. 25, cioè, 25 no, come le nozze d'argento. Sembra un po' banale. Forse un po' banale. Un po' banane. E quindi? Forse un po' banane, sì. Come direbbero le scimmie. Perfetto, si inizia bene, mi sembra. E Che facciamo? Intanto ci ascolteremo una canzone, penso, tra poco. Poi parleremo un po' di questo festival che abbiamo seguito molto da vicino. Molto da vicino. E poi avremo un po' delle nostre classiche stupende rubriche. Quelle non mancano mai. E niente, canzone. E poi si parte. Wombat! Wombat, wombat! Love will find you in the end. You'll find out just who was your friend. Don't be sad, I know you will. But don't give up until true love will find you in the end. This is a promise with a catch. Only if you're looking can it find you. This true love is searching too. Recognize you unless you step out into the light, the light. Don't be sad, I know you will. But don't give up until true love will find you in the end. Vabbè, ma comunque ci siamo, io parlo a questo punto. Eccoci. Ma mi alzi un po' nel proprio bravo. C'è uno wombat wombat qui sotto che si aggira. Che si aggira e dice wombat wombat. Sì, che fa il suo verso. Un Pokémon. Perché il verso wombato. Esatto. esatto, che il Wombat praticamente fa come Pokémon, cioè il suo verso è anche il nome della sua, sì, specie, come Pikachu, tipo Pikachu. È Wombat, Wombat, esatto, questo è il Wombat, scelgo te. Bene. Allora, vogliamo chiacchierare di questo spaziale festivalone che, esatto, si è svolto questi quattro giorni. Oh, per, sì, chi non avessi, non si fosse sorbito i quattro meravigliosi giorni di direttona, ragazzi, che è una cosa veramente di cui essere felice. Ma sì, siamo molto fieri anche. E per chi l'ha fatta, chiaramente. Come si è svolto? Pareri generali, ci sono stati tanti interventi, tante giornate pregne, diciamo. Pregne vuol dire incinte? Pregne, pregne, sì, sì. Si prona nel senso, sì, proprio di... no, perché a partire dalla prima giornata e dalle presentazioni di, delle riviste, tra cui mi pare che Brigida ci parlerà fra un po', magari. Attenzione. Più tardi. Sì, sì. A sorpresa. Che aveva un rospo da c'ho ascoltare. C'ho un rospo, sì. C'ho un rospetto. Allora, la cosa che ho preferito del festival, sinceramente... Ah, già siamo sul, sì, preferito? È la maionese vegana. Nei burritos, del burrito, è vero. Il burrito, cosa più. Vero? Questo sapore buono, inaspettato, è vero. Altre cose dal sapore inaspettato, o più che altro in realtà abbastanza aspettato, c'è stato il secondo giorno, tantissime belle presentazioni, sì, assolutamente, a partire dalla da Olmi, Olmi, la rivista Zapruder, poi il libro, sì, di Gianluca Costantini, molto molto molto interessante. Tra l'altro, ragazzi, c'è stata quella, anche un'esposizione di alcuni suoi disegni, che è tuttora in polveriera, e tra l'altro fra un po' verrà riconsegnata, probabilmente. No, non è detto. Attenzione, notizia flash, sono copie che lui ha sono lasciato, nostre, cioè, resterà. Dimostreremo. Bene. Poi c'è stato un bellissimo, e soprattutto a me mi ha stupito questo, nel senso che in generale di questo festival, abbiamo detto diverse volte che uno dei temi portanti di tutto il festival era la poesia, e infatti ci sono state un sacco di presentazioni, tavoli e anche performance di poesia. Verde. Mi ha stupito molto vedere che a qualsiasi presentazione, che fosse di un libro, che fosse appunto un dibattito, che fosse una performance, ci fossero decine e decine, in certi momenti anche più di centinaia, di persone in completo silenzio e in completo ascolto. Non è penso... vero, c'era una partecipazione, c'era un pubblico molto attivo, nel, sì, senso attivo, sì, cerebralmente. Esatto. Quindi questa è una cosa che si è notata tanto. E che era anche difficile, non era per niente scontato, perché con le temperature che si sono raggiunte in quella stanza, insomma... E anche con le temperature concettuali. Ci sono stati degli interventi molto interessanti al di fuori del pubblico, che come al solito è un po' timidone. Però questa è un, sì, po' la natura del pubblico. E anche il pubblico interessato forse è anche più timidone del solito. Beh, sì, va detto che la competenza dei relatori, i relatori erano numerosi, erano 4 o 5, erano tutti di è una vero competenza tale per cui... Io avevo varie domande all'inizio, però ascoltando i vari interventi hanno tutte risposto, bene o male. Top. Cioè, quindi... Anche la presentazione dell'altro ieri, se non mi sbaglio, sì, forse era ieri, di Affluenti, è stata super, sì, interessante. Sì, era ieri. Scusa. Grandi menti. Il tempo si mischia. Poi... Anche... Dimmi. No, cioè, abbiamo registrato tutto, ovviamente. Abbiamo registrato Wombat, tutto. Abbiamo messo... E metteremo con la dovuta calma, calma, sì, che ci contraddistingue. Caricheremo tutto sul blog. Certo. Magari in podcast divisi. Divisi tra fruizione un po' più agile. Però appunto contenuti, anche questi tavoli, questi incontri poi saranno tutti messi a disposizione per chiunque se li fosse persi. Insomma. Pensiamo anche a voi. Sì, sì, certo, sì, certo. Sì. Torneranno, ritorneranno. Ritorneranno, sì. Già qualcosa già oggi, vi facciamo riascoltare. E poi in realtà anche nelle prossime puntate utilizzeremo qualcosa. Inviteremo qua da noi in trasmissione alcuni delle persone che hanno partecipato al festival. E continueremo a parlare anche di tanti temi che sono usciti. Nel senso che non è... soltanto stato un festival che rimane lì con le sue non è un, anche questa è un'altra cosa, non mi è parso che non sia stato concepito e vissuto come un evento singolo, come una cosa che succede e poi sparisce, ma come una serie di discorsi che sono attivi in vari però spazi, però questo si è visto cose. Secondo me molto dal modo di comportarsi dei relatori. Cioè c'era una grande familiarità, una grande volontà di partecipare alla esatto. cosa, c'era tanta normalità nel portare avanti questo discorso. Questo vuol dire, secondo me, che non siamo ancora all'inizio, siamo già a una bella fase, siamo già a un bel punto. Tra l'altro io ho trovato che in fin dei conti le presentazioni non siano state altro che la scusa per aver qua quelle persone certo. che poi sono intrattenute durante tutto il esatto. festival e con le quali abbiamo chiacchierato appunto in tutti e quattro i giorni. Abbiamo scoperto tante cose, tante situazioni. Quindi, interessanti. Libri, spunto per approfondimento, ma anche scuse per conoscere di persona esatto. Chi produce quelle narrazioni, quelle opere. Certo, e per rincontrarli, sì, alcuni li rincontreremo in chiostri. Esatto, tra l'altro, che poi dopo ne parleremo anche nelle prossime puntate. Ma un'altra cosa che ho notato, che diceva il nostro regista, è che persone che presentavano il proprio libro il primo giorno magari, e poi ti ritrovavi che partecipavano naturalmente a un tavolo sì. la domenica o due giorni dopo, e questo non è assolutamente scontato. Spesso ho visto situazioni in cui un autore presenta la cosa sua, prova a vendere qualche copia del suo libro e poi va a casa sua. Non è stato proprio questo, è stato tu sei uno di quegli autori che va, presenta sì, e poi se ne va dai coglioni, sì. Posso Bene. Mandare una roba, una canzoncina che non c'entra niente, ma sì. che mi sento in vena. Puoi fare ciò che vuoi. Certo. Guardo gli alini che volano nel cielo. Vanno in patria sulle nuvole, si divertono a fare i cigni nello shell, bianco come inchiostro. Vanno i treni sopra il mare tutto blu, e le gondole bianche sfociano nel crepuscolo sulle canne dei bambù. Do do do do do. Queste strane cose vedo ed altro ancora, quando dicete, dicete, dicete, dicete, dicete, sento che è guarito il cuore dall'estasi d'amore. Parapapapapam. La. Me la sentivo. Beh, è stato molto bello. Che gioia. Sì, sì. Che leggerezza. Bene. Che era quello un po' il feeling. Bene, insomma, sentivo prima volontà di interventi. Passo sì, il sì, microfono. Sì, passiamoci il microfono, parliamo tutti. Ciao ragazzi. Ciao. Come va? Bene, dai. Bene. Stanchi. Bene, io in realtà volevo parlarvi un po' di Qui e Ora. Sì. La rivista anarchica. Esatto, la rivista anarchica che è stata presentata il primo giorno. Dovevo presentarla io, ma non mi sentivo molto in vena, quindi vorrei spendere altre parole adesso. E volevo parlarne però partendo dal concetto. Si è parlato tanto di immaginario all'interno di tutto quanto il festival, no? E per l'appunto io ho scritto una tesi sull'immaginario, quindi è anche un argomento che mi tocca particolarmente. E niente, si è sempre parlato che del fatto che dobbiamo riapproparci delle nostre idee, le nostre scelte, il nostro lavoro e appunto del nostro immaginario. E partendo appunto dal presupposto che, cioè, appunto non siamo padroni della nostra vita, quindi riappropriarci sempre di un qualcosa. Come dice Antoine de Saint-Exupéry nel Piccolo Principe, sì, l'essenziale è invisibile agli occhi. E ogni persona quindi deve fare in modo di poter riscoprire questo essenziale, no? Però a partire da quale presupposto noi possiamo giudicare o rendere convenzionale un qualcosa? Allora, rifacciamoci alla cara teoria, sì, no? Quindi l'ottimo Sartre, che scrive un saggio sull'immaginario e lo articola in tre stadi. La prima è l'atto percettivo, in cui un uomo vede un bambino, perché comunque lui parte dal presupposto che c'è una prima visione, l'atto percettivo parte dall'infanzia. Okay. Quindi vediamo una cosa per la prima volta, iniziamo, quindi abbiamo una visione oggettiva che è una visione furtiva, diciamo, no? Quindi lo spettatore non si sofferma appieno, però in un secondo momento è già capace di riconoscere questo oggetto. Dopo abbiamo una riflessione, quindi c'è la percezione e la riflessione. Lui parla proprio della fenomenologia dell'immaginario. E nell'atto riflessivo, che se prendiamo l'etimologia della parola reflectere dal latino, significa ripiegare su se stesso. Quindi l'individuo deve riflettere sull'oggetto, quindi sulla prima percezione che ha avuto, ripiegare su di esso tutte le possibili combinazioni che ci possono essere su questo oggetto ed arrivare così ad un sapere in toto, quindi un sapere totale, che Sartre chiama il noema, il principio delle cose. E quindi poi Sartre pone poi pone come terzo stadio l'intenzione, e ovviamente questa intenzione nel saggio viene rivolta a un'intenzione della formazione in immagine dell'oggetto all'interno della mente. Però questa intenzione possiamo anche, io l'ho interpretata anche come un'azione, no? E quindi potremmo appunto per esempio estendere questa azione all'ic e il nunc, no? Che presuppone appunto un'azione in un dato momento. E c'è Ernst Jünger, sì, che propone l'ic e il nunc come il motto dei ribelli. E qui leggo: il motto dei ribelli è l'ic e nunc. Essendo il ribelle uomo d'azione, azione libera ed indipendente, abbiamo constatato che questa tipologia può comprendere solo una frazione delle masse, e tuttavia è qui che si forma la piccola elite capace di resistere all'automatismo e di far fallire l'esercizio della forza bruta. È l'antica libertà in veste moderna, la libertà sostanziale, elementare, che si ridesta nei popoli sani ogni qualvolta la tirannide dei partiti o dei conquistatori stranieri opprime il paese. Non è una libertà che si limita a protestare o emigrare, è una libertà decisa alla lotta. E quindi appunto il qui e ora, l'azione, ma anche secondo Sartre nella nausea dirà che la contingenza è l'assoluto. Secondo me quindi la qui adesso è una rivista che appunto ci aiuta a riflettere, vuole farci riprendere consapevolezza di ciò che accade intorno a noi al fine di poterlo cambiare. Nessun filtro, solo occhi di giovani e studiosi che non si trovano d'accordo con la visione del mondo che ci viene proposta e vorrebbero fornirci la loro. Infatti non si parla soltanto di politica e filosofia, ma ci sono anche questioni di come trattare la vita tutti i giorni. Infatti ci sono anche articoli che parlano di agricoltura o come fare la pasta, sì, madre. Questo, infatti anche la persona che è venuta a presentarci poi insieme a te, che in realtà che tu sei stata lì a fianco suo, la rivista ci ha raccontato tutte queste cose, ma questa tua introduzione è estremamente interessante, arricchisce moltissimo a livello concettuale il concetto che poi vogliono loro nella pratica e vogliono anche in tanti a giro. Certo, perché quello che dice Sartre, che è fondamentale in realtà, è che l'immaginario è un mondo che è completamente soggettivo. La riflessione, attraverso la riflessione l'individuo arriva a del sapere in toto dell'oggetto, ma è un sapere che è completamente soggettivo, capito? Sì. È fuori da quelle che sono le sovrastrutture sociali, e come tutti quanti i testi e gli articoli che vengono messi in qui e adesso. Però si parlava anche di una creazione di immaginario collettivo, quindi, ma in realtà questo è un altro dei temi che ha praticamente attraversato tutte le presentazioni di 4 giorni di festival, cioè è stato è un po' forse il tema certo portante su sì, quanto il festival, sì, alla fine, sì. Però io credo che di immaginare collettivo possiamo iniziarci a parlare quando tante persone appunto come in questo momento per esempio che non ci piace la politica che i governi ci propongono, non ci piacciono le televisioni, non ci piacciono i giornali, allora, i governi proprio non ci piacciono, esatto, tutto quello che è figlio poi le radio. E appunto se queste persone si uniscono in un tema comune, soltanto lì si potrà andare a creare un immaginario collettivo. Durante il festival si è parlato anche per esempio della poesia, no? Di sì. Quello che doveva fare la poesia, però sì. Cioè la poesia, si è parlato tanto della funzione del MEP anche denigrandolo, no? Dicendo che il MEP fa venire più voglia di scrivere che di leggere, invece non è sempre così. Il MEP ha fatto venire voglia di leggere e continua a avermi fatto voglia anche. Venire di scrivere poesia, assolutamente no, non ho mai scritto una poesia in vita mia, però ne ho lette tantissime da quando esatto. Il MEP è iniziato a lavorare. D'accordo. Per me fa lo stesso effetto. Però appunto, no? L'importanza del MEP qual è? Sta nell'agire, nel fare in quel momento e non... Infatti erano discorsi secondari secondo me quelli che sono venuti fuori, come quando hanno detto che la poesia era la scarnificazione, no? Mettersi a nudo, e secondo me non è assolutamente questo. Cioè Platone nel Simposio dice che l'arte è un'espressione, è l'azione, no? È incanalare l'energia per produrre un qualcosa, ed è quello che sta facendo appunto il MEP anche per esempio, un creare un movimento, un qualcosa, una perché poesia. Perché questo non dovrebbe essere la scarnificazione di se stessi? Perché, non è, perché, non, perché scarnificazione significa levare la carne, invece esatto. Lì c'è proprio un moto di azione, poesis, agire, fare. Guarda, a proposito di questo c'era Pasolini che parlava molto di attivismo come l'utilizzo del corpo all'interno della... cioè come mezzo stesso di proposta dell'arte. Però io immagino scarnificazione in senso metaforico, non in senso letterale. Credo però secondo me dobbiamo dare anche peso alle parole che uno utilizza, no? Cioè... scarnificare ha un'accezione che è negativa e l'arte non è negativa. Ma infatti... mai l'espressione artistica non è mai negativa, anche se non ti può piacere. Io penso il contrario, in realtà penso ha che ragione, l'arte si parla... positiva sia una cosa che non abbia senso che esista, però secondo me si può parlare di scarnificazione come dici tu, nel caso poi dei casi che si stanno citando, anche un po' secondo l'idea Foucaultiana della morte dell'autore, della necessità dell'autore di scomparire, quindi certo, ma però non si può parlare di scarnificazione se lo si rapporta al sistema e al suo modo di esprimere, cioè nel senso io faccio a meno di me, mi disintegro come essere, come persona, sì, del crei, però ora, scusate, non come persona vera, però ci stiamo sovrapponendo a dei discorsi fatti negli ultimi giorni che abbiamo ascoltato soltanto noi presenti. Questo è per dimostrare a quindi, tutti i belli spettatori magari, quanto è stato bello no, e quanto ci siamo gasati. Siamo dei fugasi. È molto interessante. Io direi di riprendere questo argomento anche in futuro e magari quando avremo pubblicato anche noi i podcast. Noi facciamo così, guarda, bravo. Noi magari stralciamo. Ci sentiremo anche noi perché esatto. Ora risentiamo le cose e ne parliamo. Ne parleremo sicuramente. Volevo, sarà bellissimo. Volevo soltanto... quindi penso di avervi fatto capire bene o male cosa significa qui e ora, no? Sì, sì, sì, sì, certo. E volevo concludere leggendovi una parte un estratto del libro che è stato riproposto all'interno della rivista che si chiama Maintenant, del Comité Invisible. E dice... La speranza, questo leggerissimo ma costante impulso verso domani, che ci è comunicato di giorno in giorno, è il migliore agente di mantenimento dell'ordine. Ci informano quotidianamente dei problemi per i quali non possiamo far nulla, ma per i quali sicuramente domani vi saranno delle soluzioni. Tutto lo schiacciante sentimento di impotenza che questa organizzazione sociale coltiva in ognuno a perdita d'occhio non è altro che un'immensa pedagogia dell'attesa. È una fuga dall'adesso, ma non c'è mai stato e non c'è e non ci sarà mai altro che dell'adesso. E anche se lo ieri può esercitare un'azione sull'adesso, è perché questo ieri non è mai stato null'altro che un adesso. Come lo sarà domani? L'unica maniera di comprendere qualcosa del passato consiste nel comprendere che il passato fu anch'esso un adesso. Vuol dire il debole soffio d'aria nel quale vivevano gli uomini di ieri. Se siamo così inclini a fuggire all'adesso è perché è il luogo della decisione, è il luogo dell'accetto o del rifiuto, è il luogo del lascio andare o del ci tengo, è il luogo del gesto logico che segue immediatamente la percezione, è il presente, dunque il luogo della presenza, è l'istante sempre ripetuto della presa di partito. Pensare in termini futuri è sempre più confortevole, alla fine le cose cambieranno, alla fine gli esseri saranno trasfigurati, e aspettando continuiamo così, restando quello che siamo, una mente che pensa in termini di avvenire è incapace di agire nel presente, non cerca la trasformazione, la evita. L'attuale disastro è come un'accumulazione mostruosa di tutti i riferimenti del passato, ai quali si aggiungono in una frana permanente quelli di ogni giorno e di ogni istante. Ma la vita si gioca sempre adesso e adesso e adesso. Evviva, grande Brin. Grazie. Prego. Del blu oltre la soglia dentro il nero, sale, al di là del blu oltre la soglia dentro il nero, sale, al di là del blu oltre la soglia dentro il nero, sale, al di là del blu oltre la soglia dentro il nero, sale, the music was so much class. The music was so much class. Al di là del blu oltre la soglia dentro il nero. Sale, sale. Al di là del blu oltre la soglia dentro il nero. Sale, sale. Ok. Senti, prima ho detto una cazzata, vero? Prima hai detto che qui ora è una rivista anarchica, non mi risulta. Chiedo scusa. Semmai di area autonoma. Sono confuso, perdonatemi. Non ci preoccupiamo di questo, direi, non è un gran problema. Però abbiamo fatto bene anche a specificare, puntualizzare cose. Detto questo, possiamo iniziare con la rubrica. Questa di Brigida a me è piaciuta. Comunque non è stata una rubrica, ma si alimenta il dibattito. Possiamo anche istituzionalizzarla come una rubrica fissa che da oggi in poi ci accompagnerà. Servirà la sigla per Brigida, dice. Fare una sigla per Brigida. Questo mi sembra un po' per quando ti danno la mano e ci si prende il braccio. Le nostre ormai. Esatto, è Brigida assunta. Nico anche, ormai da tempo. Da un po', da un po', sì. E mai licenziato. Sei uno dei fortunelli. In realtà solo io e te se stai licenziato, ma certo. È vero, però poi vi hanno rimpiazzato. Sono delle crescenti, Nico. Insomma, ciao. Ti volevo dire ciao sulla tua rubrica. Si inizia. Io volevo dire una cosa prima della mia rubrica. Volevo dire una cosa prima della mia rubrica. Aspettavo l'assist, ma non mi arrivava, capito? Ero sotto canestro. Niente, volevo dire che vorrei, come si era già detto l'altra volta, mi era venuta questi mezzi idee, adesso voglio ufficializzarla, cazzo. Due pezzi di core, rimane due pezzi di core, però verrà aggiunto un terzo pezzo di chiusura. Questo terzo pezzo che mi hanno stimolato tra l'altro ieri sera, infatti colgo la palla al balzo perché sentivo questi ragazzi di Fumofonico, c'è stato dentro la polveriera questo lungo reading, di non reading, questa lunga slam, questa lunga sessione di slam. Un ragazzo in particolare mi è piaciuto abbastanza, si chiama Tab Palmieri, poi lo conosco. Ha detto, sì, c'era una frase in una sua poesia che poi gli volevo richiedere, non sono riuscito a intercettarlo, e diceva: la crusca della nostra generazione, questa chiaramente la parafraso perché non la so bene, era molto più musicale, era tipo la crusca culturale della nostra generazione, reclama vino scadente e canzoni commerciali. La cosa bella che mi ha fatto riflettere questa cosa è che la parola crusca è ambivalente in due modi totalmente diversi, cioè rimanda subito alla mente l'Accademia della Crusca e quindi l'elite culturale, la crusca, ma appunto, anche certo, la crusca, la biada, no? Certo. La crusca è lo scarto. E quindi forse non sai da cosa deriva il nome dell'Accademia della Crusca. So da cosa deriva. No, però nel senso, secondo me c'è questa, no, vaffanculo, secondo me c'è oh, no, dai, finalmente, doveva succedere, il regista stava mandando a fanculo, è giusto. Il notaio deve dire. No, però tu devi... L'Accademia della Crusca si chiama Crusca perché gli accademici della questi che poi sono chiamati accademici della Crusca raccoglievano nel loro vocabolario della Crusca tutto quei vocaboli, quei termini dell'italiano volgare, quindi la, ma certo, che, certo, veniva... Andrea, però se tu mi fossi stato ad ascoltare, io stavo dicendo che la Crusca della nostra generazione poi suona in una maniera diversa, cioè non pensi all'Accademia della Crusca della nostra generazione, ma pensi alla Crusca della nostra generazione, quindi lo scarto della nostra generazione, la pelle del grano della nostra generazione, quello che rimane, che non viene mangiato, non il buono, quindi la massa, poi tra l'altro il grande scarto della nostra generazione. Sì, sì. Vuol dire sia allo stesso tempo questo, sia un po' l'elite, se pensi all'Accademia della Crusca come istituzione. Comunque, volevo dire semplicemente sta stronzata per dire che la crusca della nostra generazione siamo un po' noi e reclamiamo vino scadente e canzoni commerciali, e questo è in dubbio. Questo è veramente appunto in dubbio, sì. E questo lo dico per non penso introdurre... sia soltanto la nostra generazione. Forse no, forse ma no. Ma penso sia un po'. Comunque, questo per introdurre la mia rubrica. Mandatela, qualcuno dica sigla. Sigla! Sigla! Che ci buttaste per mamma con tanto amore, dubbi e sicure. Sigla, benvenuta. Come triste Venezia. Bene. Allora, la storia d'amore che si racconta oggi è una storia d'amore triste, come più o meno anche quella dell'altra volta. Stavolta forse è un po' più triste, però... Boh. Vabbè, bella, tanto, sono canzoni meravigliose oggi, ragazzi. La prima che sentiamo è del Masterpiece che stiamo ascoltando qui sotto. È The Charles Aznavour. Scoperto, sì, nato nel 24. Insomma, questo pazzo era armeno, sì. Non era francese, cioè vissuto in Francia, nato in, però origine. Di origine armena. Il vero nome è Shanur Vaginag Aznavour. Vaginag. Ok, niente. Viene lanciato sul teatro dai genitori da piccolo, non in senso, cioè in senso figurato, diciamo. Forse un po' anche letterale. Ma a 9 anni comincia a fare l'attore. Viene scoperto da Edith Piaf, giovanissimo, che lo porta in Francia, e diventa famosissimo. Pensate a Aznavour, veramente una colonna portante degli chansonniers francesi. Ha inciso più di 1000 pezzi. di cui tra l'altro veramente la stragrande maggioranza sono canzoni d'amore, e quindi non a caso lo portiamo qui. Ha fatto anche l'attore negli anni 60, viene in Italia, portato nel mercato italiano, perché come si diceva la scorsa puntata, il mercato francese, cioè la musica francese in Italia arriva molto negli anni 60, viene portata molto in televisione, arriva molto a Sanremo, i cantanti italianizzano le loro canzoni. Stessa cosa fa Aznavour, che italianizza per esempio anche questa qui sotto che sentiamo, okay. Che si è triste Venise, si dice Venise? Venise. Che sei triste, Venise, eccetera eccetera. Poi avrà dei problemi col fisco, scapperà in Svizzera, vabbè, inutile come tanti addirittura. Ho scoperto che nel 95 diventa ambasciatore dell'Armenia per l'UNESCO e nel 2004 è addirittura eroe nazionale armeno. Addirittura. Sì sì. Una cosa divertente, cioè no vabbè, senza dire, è stato veramente tanto importante, ha influenzato tantissimo, tantissimi cantanti italiani hanno rifatto le sue canzoni meravigliose. La canzone che sentiamo oggi in particolare, vi consiglio di andarvi a vedere una cosa bellissima che passò in TV ai tempi, che è questo sketch di Raimondo e Sandra, di Raimondo Vianello e Sandra Mondaini, con Armando Francioli in un programma che fecero loro che si chiamava Tante Scuse, fu il secondo programma di Raimondo e Sandra che fecero sulla Rai, è del 74, la canzone era uscita nel 70, è meravigliosa ed è un po' il punto di inizio della nostra canzone d'amore, della nostra storia d'amore che narriamo, che oggi, narriamo oggi, si chiama Io tra di voi. Sentiamola, bellissima. È di una tristezza oggi presente, veramente ragazzi, veramente, è la conosco, violenza molto belli, è molto molto bella. Speriamocela, del 70 a lui di nascosto osserva te. Sei nervosa vicino a me, lui accarezza lo sguardo tuo, tu ti abbandoni al gioco suo e io tra di voi, se non parlo mai, ho visto già tutto quanto, ed io tra di voi capisco che ormai la fine di tutto è qui. Lui sta spiando che cosa fai, tu l'incoraggi perché lo sai, lui sa tentarti con maestria, tu sei seccata che io ci sia, e io tra di voi, se non parlo mai, osservo la vostra intesa. E io tra di voi nascondo così l'angoscia che sento in me. Lui di nascosto sorride a te, tu parli forte, chissà perché, lui ti corteggia malgrado me, tu ridi troppo, hai scelto già, e io tra di voi, se non parlo mai, ho gonfio di pianto il cuore, e io tra di voi, da solo vedrò la pena che cresce in me. Oh no, non è niente, forse. fosse un po' di fatica. Cosa vai a pensare al contrario? È stata una magnifica serata. Sì. Sì, una magnifica serata. Ebbene, spero abbiamo sentito questo. Era bellissimo. Questo inizio tragico di lei innamorata di un altro e loro costretti a questa vicinanza. Lui costretto a guardare vicino alla fine di un amore tremendo. Davvero struggente. Nella canzone che stiamo ascoltando qui sotto, Ciampi, Carlo Azeglio chiaramente, sta cantando un po' il rifiuto che viene dopo questo primo intrallazzo che abbiamo visto, e lo sentiremo fra poco, e infatti farò cenno al regista di alzare nel momento adatto. La canzone che stiamo per sentire dopo questa qui, nel frattempo, è una canzone di Bruno Lauzi. Parleremo di Bruno Lauzi appena sentiremo il ritornello di questo pezzo meraviglioso. Possiamo alzare. È un gatto se lo mangia tra gente indifferente, ma non sono io, sono gli altri. È così. Vuoi stare vicina? No. No. Ma vaffanculo. Ok. Possiamo passare. Allora, parliamo un po' di Bruno Lauzi. Vai. Te, gli intellettuali e i pirati. Ma vaffanculo. Bruno Lauzi, che non è Piero Ciampi che stiamo sentendo qui sotto, è morto, scoperto, pensavo che non fosse morto, certo, invece morto. È morto a 69 anni, tra l'altro. Insomma, scoperto nasce nell'Eritrea italiana, è un po' di quelli che fanno parte del cantautorato genovese, perché nonostante fosse eritreo di nascita, si trasferisce subito appunto in Liguria. Da piccolo fa un gruppo, il suo primo gruppetto, con Luigi Tenco. Nel 60 inizierà a scrivere, cioè mentre già comunque scriveva canzoni, nel 60 inizierà a prendere piede almeno come autore, perché Gaber inciderà una sua canzone che si chiama Bella. Da lì ci riproverà, si lancerà sul mercato con sto nome improponibile di Miguel e i Caravana, che incidono due canzoni in genovese, che chiaramente fanno un po', sembra quasi in portoghese, quindi in realtà vendono anche fuori dall'Italia, stranamente. Piano piano si inizia ad entrare nel mercato discografico, fa i suoi primi pezzi in italiano e tutti ne riconoscono il valore poetico infinito. Una canzone che non è quella che vi porto oggi, perché non parlava d'amore e quindi non mandava, che però sarebbe stata davvero pertinente e spero che questa radio la rimanderà presto. È una canzone che si chiama Il Poeta, di Bruno Lauzi. È una canzone meravigliosa che parla, molti pensarono fosse dedicata appunto a Luigi Tenco, perché parla di questo poeta, dice si parlava con amici a un bar di donne e motori, si diceva son gioie e dolori, lui invece guardava nel cielo e parlava di te sempre. Questo uomo parla di questa persona distratta, innamorata della vita e delle donne in generale, che alla fine si uccide. E dissero di lui che era un poeta. Poi in realtà questa canzone confessò Lauzi che l'aveva scritta prima che Tenco morisse, okay, anche perché lui fu sconvoltissimo dalla morte di Tenco, non parlò di questa cosa per anni. Addirittura scrisse un articolo, non mi ricordo su che giornale, contro De André, criticandolo per Preghiera in gennaio, che era dedicato, sì, a Tenco, dicendo che quasi gli sembrava un'apologia del suicidio, di questo, okay, estremo atto che aveva fatto. Niente, comunque, a parte tutte queste canzoni super struggenti e piene d'amore che aveva scritto Brunone, ha scritto anche tanta roba per bambini, ha scritto tanta musica. La tartaruga, yeah, un tempo fu un animale che correva testa in giù, come un siluro. Ok. Grazie Nico. Di nulla. Ho scoperto, ma poi tra l'altro questo qui è un personaggio veramente simpatico. A una certa si è aperto, è andato a Sanremo un paio di volte, ma non gli è mai piaciuto, non gli è mai fregato un cazzo, voleva stare lontano da questo show business, insomma. Si è aperto in un'azienda vinicola e produce il produceva il Barbera con la moglie, produceva un vino Barbera appunto che sì. Si chiamava La Celeste, andava molto a raccogliere i funghi e si diede questo appellativo di poeta fungarolo. Pensa che personaggio simpatico. Sì, cioè, insomma, sì. La canzone che sentiamo adesso è appunto dopo il ma vaffanculo finale, rimane ancora quella voglia dell'amore e ritornerai di Lauzi, spariamocela, bellissima, meravigliosa, sogniamo. Ritornerai, lo so, ritornerai, e quando tu sarai con me, ritroverai tutte le cose che tu non volevi vedere intorno a te. E scoprirai che nulla è cambiato, che sono restato illuso di sempre e riderai. Quel giorno riderai, ma non potrai lasciarmi più. Ti senti sola con la tua libertà ed è per questo che tu ritornerai. Ritornerai. Ti senti sola libertà ed è per questo che tu ritornerai, ritornerai, ritornerai, ritornerai. Bene, ritornerai? Domanda, punto di domanda. Vai. E adesso ragazzi arriva il finale. Vi dico da adesso che lei non ritorna. No, sì, purtroppo sì. E vi dico anche che la canzone che stiamo per ascoltare sarà simile alle prossime terze mie canzoni che andremo ad ascoltare nelle prossime puntate. Ma quindi scusami, esatto. È diventato tre pezzi e core? Potrebbe diventare. È come se fosse tre pezzi e core, però i due pezzi e core sono l'inizio. Sì. E poi c'è la crusca della nostra generazione. Ok, va bene. Capito? Va bene. Il terzo è la crusca della nostra generazione. Chissà cosa ci fai ascoltare, secondo me è qualcosa di tremendo. Di bellissimo, e invece... No, anche perché si deve parlare appunto del valore poetico. Possiamo ritornare a parlare del valore poetico, se proprio... Se proprio vogliamo. Allora, niente, la facciamo partire, lasciamo i microfoni accesi e potete fare tutte le domande. Io vorrei dirvi solo che è una canzone d'amore meravigliosa, veramente meravigliosa. Tu sei pronto a discendere anche... Questa è una canzone meravigliosa che parla appunto dopo il no di lei... Sì. ci si accorge, però io voglio c'è una un regia sì. pronta. No, no, ci si rende conto che la situazione è sbagliata, che così non deve andare, okay. e si dice è ingiusto. Che sai, bello tu, bello Guccia è una figa strepitosa. Sono un figo. Sarà detto di no. Un figo strepitoso. Strepitoso. Sei una bomba. E io te lo giuro. Ogni volta che ti vedo io sono felice. È tipo una cover, è tipo una cover. La base esisteva già. Gucci, ogni volta che ti vedo sono felice. Gucci, tutto quello che ti serve. Tutto quello che ti serve. Ma davvero tutto, tutto, tutto, tutto quello che ti serve. Tiziano Ferro, che cos'è? Sono bello, io ce l'ho grosso. Facile. E sono anche. Sentiamo, parte il ritornello meraviglioso. Bello Gucci, posso essere tuo puttano. Certo. Posso esserti di tutto. Senti che bello. Non importa che succede. Alai, chiamami se vuoi scopare. Chiamami se vuoi scopare. Io penso che sia veramente uno dei versi più romantici del come fa una figa. È davvero col cuore. Figa sentitelo bene tutto, se no ci aspettiamo tutti mai se non va. È ingiusto, io sono più bello. Non capisco, è sulla base della famosissima canzone pop. Che non capisco come fa una figa come te a stare con quel trocio. E io tra di voi, capito? Meraviglioso. Tutto. Non importa che succede, allora chiamami se vuoi scopare. Bello, bello, come bene, io con questo direi che vi saluto. Sì, sì, sì, sì, non avermi tu troppo. Cioè, Guido contrariatissimo, contrariatissimo. Guido, a metà tra l'essere contrariato perché non per quello che hai fatto, perché era una sorta di tabù questo ovviamente per tutti noi, ma l'hai infranto e quindi non ne parleremo fino alla prossima situazione, diciamo. E un po' forse anche per altri motivi, non so, ce lo devo dire a lui, non so se è soltanto per questo che sei contrariato. No, assolutamente. Ok, non ne parliamo più. Anche perché il mio corpo si muove a tempo. Certamente. Anche perché io vi saluto e vorrei dire chiaramente di togliere la canzone prima della fine, ma anche di spoilerarvi. No, perché migliora, però è inutile sentirla tutta. L'ultimo verso meraviglioso dice: io ci sarò, cioè dice sempre ancora: chiamami se vuoi scopare. Io ci sarò anche se piove. Capito? Rendetevi conto del petrarchismo. Non è roba. Canzoni d'amore sono sempre, anche con le parole peggiori, sono sempre canzoni d'amore. La volta prossima ci porti gazzosa. È facile, è probabile. Secondo me è molto di peggio. Secondo me no. Va bene, aspettiamo altro. Un bacione, viva Nico, Fuoco alle Polveri e viva Radio grazie, Wombat. Nico. Io ci sarò anche se piove. Bello Guccia. Dubbi e sicure. Non sapeva se partire. Era indeciso. Faccio ha detto di sì. E comunque, sempre scusateci su Radio Wombat. Lo ridico perché non t'ho sentito. Quindi ho paura che tu abbia dei problemi. E, Io. No, il giovane regista. Lui. Mi ero spento il microfono per farmi uno scherzone. E, Simpa della Humpa. Il Simpa della Humpa. Allora, ringraziamo Nicco che ci ha portato oltre alle solite canzoni stupende che conosciamo o non conosciamo, ma sono sempre utili a ricordare. Ma ci ha portato anche questa sterzata di follia doverosa ogni tanto. È giusto, un po' il nostro programma. Su Radio Wombat, sì, infatti. Alla fine facciamo questo. Possiamo scegliere tra mandare una canzone. Io ho una canzone da Simpa della Pumpa. Dai, manda sta cazzo. Ancora. Dai, sì, sì. Bene, ascoltiamo con gioia. Una canzone. Qui su Radio Wombat. Eppure son simpatico, mentre mi guardo allo specchio sono un simpatico, per i compagni e per gli amici, mentre per te, oh, solo per te non sono che una cicca, l'avanzo di una sigaretta fumata. Sono un simpatico, hanno anche detto che son bello, ma se mi guardano dico che forse non è vero, ed hai ragione tu, forse hai ragione tu, perché solamente tu mi ripeti che sono una cicca per te e mi fai piangere. Io so già che un giorno tu vorrai raccogliermi, ti brucerai con il mio amore, sì, ti brucerai e non mi avrai. So già che un giorno tu vorrai raccogliermi, ti brucerai con il mio amore, sì, ti brucerai e non mi avrai. Impastillo sbrillo, pring, impastillo sbrillo, pring, impastillo sbrillo, pring, impastillo sbrillo. Buonasera, eccoci qua. Quest'oggi in differita, sì, perché stiamo registrando alla spep house. Pizzo è qui con me. Ciao Lillo. Ciao. Allora, siamo dopo pranzo, però parliamo di cucina comunque lo stesso, eh? E io avevo intenzione di proporre agli ascoltatori, visto che si avvicina la primavera, cioè la primavera si avvicina il calduccio, piatti freschi, assolutamente piatti freschi, non va cotto niente. E quindi una panzanella. Che la fai la panzanella, pizza? Io la faccio, sì. Come la fai? Cosa ci metti? Io ci metto il pane secco. Allora, pane secco si mette a bagno con l'acqua per un pochino, cioè si tiene lì un pochino, bello secco anche, va bene uguale. Quando è bello ammollato si strizza ben bene e lì ci vuole un sacco di forza, cioè ti vengono degli avambracci, niente male quando è il periodo di panzanella, lo strizzi ben bene, non ci deve rimanere punta acqua. Poi fondamentale l'aceto, chi non ci mette l'aceto è un casino. Qualche volta mi è capitato una volta che avevo detto mettici l'aceto e ci hanno messo l'aceto balsamico. Io ti dico, è venuto fuori un troiaio clamoroso e praticamente niente, quindi ok, ci siamo, è vero, ha detto le due cose fondamentali: il pane va bene ammollato, è una zuppa di pane ammollato, quindi lo mettete a mollo. Io utilizzo di solito non secchissimo, magari di un paio di giorni prima, un buon pane di un paio di giorni prima, messo a mollo, tenetelo immerso, quindi mettetelo in un catino con sopra qualcosa, lo ammollate. Per strizzarlo io vi consiglio di metterlo in uno straccio e di strizzare fortissimo lo straccio. In questo modo toglierete praticamente tutta l'acqua e il pane non verrà una spappolatissimo, rimarrà comunque un po' compatto. Mettete tutto in una bacinella, ci aggiungete pomodori, cipolla fresca, basilico in abbondanza, non lesinate, sale, pepe, olio e aceto, naturalmente, non aceto balsamico. C'è chi ci mette pure i cetrioli. A me piacciono i cetrioli. C'è anche chi ci mette l'insalata al posto del basilico. Secondo me vanno anche i cetrioli, se dico la verità. Però questo è il mondo si divide in pro e contro i cetrioli, quindi... C'è anche qualche bestemmiatore che ci mette il tonno, ma quelli sono bestemmiatori. No, tonno no. Su Radio Wombat li mandiamo sonoramente a fanculo. Esatto, tonno nella panzanella no. Però ecco, se l'aceto balsamico nemmeno, aceto di vino. Se invece volete l'aceto un po' meno forte, un po' meno potente, ci mettete un aceto di mele che va benissimo. Fresca, ve la potete conservare, la mettete in frigo, la tenete per un paio di giorni, due o tre giorni vi dura. Buon appetito. Vi saluto. Ciao ciao. Wombat. Pring. Impastillo sbrillo. Pring. Impastillo sbrillo. Pring. Impastillo sbrillo. Pring. Impastillo sbrillo. Ciao ragazzi, e oggi ho portato un libro, In un mondo senza cielo, antologia della poesia palestinese. È un libro che ho acquistato durante il Festival della Letteratura Sociale in Polveriera e mi ha colpito in particolar modo una poesia che è molto dolorosa, però poi c'è un messaggio di speranza. Questo libro purtroppo non viene più prodotto, quindi quelli che c'erano insomma al festival erano gli ultimi pezzi. È il risultato di un progetto di sostegno alla poesia palestinese e di promozione della sua conoscenza in Italia, che è stato condotto dall'Associazione Culturale Fiorentina Laboratorio Nuova Buonarroti. Dunque, il ricordo di una terra martoriata e per molti lontana rimane vivo nelle poesie che evocano i luoghi cari e gli amici perduti per sempre. Qui rivivono le ansie, le sofferenze e le tristi esperienze che nel mondo arabo hanno assunto il profilo di un dramma epocale. Come scrive il poeta Ahmad Dabur, la poesia palestinese è un albero del giardino dell'immaginario e della creazione poetica degli arabi. In un mondo senza cielo è un verso di Mahmoud Darwish, che chiaramente allude ad un orizzonte senza prospettive. Questa antologia vuole comunque dimostrare che la speranza continua a vivere nella poesia palestinese. E dunque, la poesia che ho scelto... E un attimo che la trovo... Sfoglio. È una poesia di Gabra Ibrahim Gabka, non è l'arabo, non lo so leggere, e si intitola Nel deserto dell'esilio. Nel deserto dell'esilio primavere si inseguono. Che ne è del nostro amore quando i nostri occhi di polvere e gelo sono colmi? Verde Palestina, terra nostra, dai fiori come pizzi sulle gonne delle donne. Marzo adorna le colline con peoni e narcisi. Aprile schiude nei campi fiori e spose. Maggio è melodia cantata al meriggiare, nelle ombre azzurre, tra gli ulivi delle valli e nei campi maturi. Di luglio aspettiamo le promesse e la danza chiassosa fra la messe. Terra della nostra gioventù trascorsa come sogno all'ombra di aranceti, tra i mandorli delle valli, Ricorda Cerranti, tra le spine del deserto, erriamo tra le rocce dei monti. Ricordaci ora nel tumulto cittadino, oltre i mari e i deserti. Ricordaci di noi, ricolma gli occhi di polvere che non va via, nella rapida sosta e nell'erranza. Annientarono i fiori sui colli attorno a noi e su di noi abbatterono le case, sparsero i nostri resti e innanzi a noi distesero il deserto. Ecco, abissi avvolgersi nelle proprie viscere e ombre azzurre fendersi in spine rosse chine su corpi, preda per falchi e sparvieri. Dalle tue cime gli angeli cantano ai pastori, melodie di gioia e pace all'umanità. Solo la morte rise quando vide nel ventre delle bestie costole umane. Tra i colpi dei proiettili si mise a ballare una danza gioiosa in testa alle prefiche. Terra di smeraldo, ma nel deserto dell'esilio primavere si inseguono, sul nostro volto solo polvere. Che ne è del nostro amore quando occhi e bocche di polvere e gelo sono colmi? Polly came from Miami, FLA. Each had her way across the USA. Flashing arrows on the way. Shaved the leg and the she was a she. Hey, baby, take a walk on the wild side. I said, hey, honey, take a walk on the wild side. Candy came out from the island. In the back room she was everybody's darling. But she never lost her head. And then she was given head. She says, hey baby, take a walk on the wild side. I said, hey honey, take a walk on the wild side. The car goes go do do do do do do do do do do do Played the jaw never once and gave it away. Everybody had to pay and pay. A hostel here and a hostel there. New York City's a place where they say, hey baby, take a walk on the wild side. I said, hey honey, take a walk on the wild side. Sugar from Freddy came and hit the streets. Looking for soul food and a place to eat. Went to the Apollo, you should have been go, go, go. She said, hey baby, take a walk on the wild side. I said, hey honey, take a walk on the wild side. The cars goes go, chicka-do, chicka-do, chicka-do, chicka-do, chicka-do, chicka-do, chicka-do, chicka-do, chicka-do, chicka-do, chicka-do, chicka-do, chicka-do, chicka-do, chicka-do, chicka-do, chicka-do, chicka-do, Jackie is a jet spinning away. Thought she was just in for a day. But then I guess she had to crash. Valen will have them have to fast. She said, say, baby, take a walk on the wild side. I said, hey, honey, take a walk on the wild side. The cars just go. Che saponare, ragazzi. Fatto una sudare. Boh, fa la doccia, ciao. Che poeta. Eccoci qua, dai. Eccoci qua. Sì, sì, grande pizza, grande Anita, grande tutti. Grande bello. Saponata, a quanto pare. Grande anche saponata, bravo. Grande Drago. No. No. Alto tabù. È arrivato? L'hai sentito? Hai visto? Cioè? Non so. L'hai evocato e è arrivato. Ah, sì? Forse sì, non lo sappiamo. Senti, noi a questo punto cosa dobbiamo fare? Siamo al top. Anche questo è un altro tabù. It's a long way. Spiegato. Ci sono un sacco di tabù ancora radiofonici. E lo so, ma non lo possiamo. Se no dobbiamo chiudere la trasmissione. L'ultima puntata, questa è l'ultima puntata di Fuoco alle Polveri. Ci salutiamo per sempre. No, no, no. E quindi cerchiamo di non bruciare tutte le nostre schifezze. Testa grande. Cappello grande. Cappello grande, grande. Per forza di cose. Allora, no, senti, cosa succede in settimana? Torniamo anche un po' a fare, anche un po' appunto, avere questo ruolo. È finito questo lungo festival che c'ha, sia a noi e a tanti altri, ci siamo dati la scossa. Molto bene. Succede di tutto. E questo qui. Festival appunto ci ha ciucciato le energie, che adesso la scossa ha definitivamente finito di ciucciarci. E però il mondo va avanti nel frattempo e sì, per fortuna. Sì, meno male non aspetta noi, perché sennò sarebbe tutto finito probabilmente già da tempo. Forse non sarebbe nemmeno iniziato. Cosa succede in settimana? C'è un po' di cinema. C'è un po' di cinema a giro, perché inizia la bella stagione. Effettivamente fa un caldo serpente. Due spazi. Grazie. Ciao. Ciao. Il fatto che questa canzone è stata usata e abusata, ormai non ti chiama una cosa, però è geniale. Allora, due spazi dedicano la settimana, un momento, un momento della settimana al cinema. Sì. Uno è, come già da tempo, La Polveriera. Sì. Come già da due martedì, sì, sarebbe il terzo. Sì, questo è il terzo. E alle ore 20:30-21. Sì. Però tu sai cosa trasmette, no? Sei pazzo completamente. Non ci credo. Il Requiem for American Dream. Bravo. Chomsky. Esatto. Chomsky. E invece l'altro spazio che pensa un po' all'intrattenimento e all'informazione e alla, non lo so, cultura cinematografica. Vabbè, sembra un po' quello che hai detto finora. No, assolutamente. Perfetto. Qual è? Via del Leone. L'occupazione di Via del Leone. Esatto, l'occupazione di Via del Leone. Diciamo che si chiama l'iniziativa Cinema Sotto le Stelle in Piazza Tasso. Quindi, sì. Suppongo che è all'aperto. Sì, all'aperto. Sì, se, di solito se non piove è direttamente nel campo di calcetto. Sì, di solito anche invitano a portarsi una seduta per chi, certo, se, per chi proprio non vuole sedersi per terra, perché esatto, no, è duro. Ma è la prima del ciclo, perché nel senso che l'anno scorso c'è stato, è stato molto bello il coso. Comunque questo qui intanto è il film, sarà, l'hai già detto? Il film non l'ho detto. Ok, allora ce lo teniamo un secondo, diciamo acerare il tutto. No, direi di dire qual è il film. Certo, no, io stavo guardando se è la prima serata, come dicevi tu, o se, vabbè, se invece torna, ci interessa. Di sicuro non sarà l'ultima, secondo me è la prima. Secondo me è la prima, comunque andiamo avanti. L'importante è che non è l'ultima. Non è nemmeno l'ultima, non ti preoccupare. Va bene, comunque, Caruso Pascoski, vabbè, di padre polacco. Oh. Sì, si comincia, vedi, si comincia giovedì 25 maggio, quindi è la prima. Alle ore 21. Bene. Ottimo, poi ottimo. Nel fine settimana ci sarà il classicissimo della città, sì, soprattutto dell'area di Firenze Sud, lo Sgane e Traballa di Alcipià, dal 25, cioè 25, 26, 27 maggio. A proposito di cinema e di Alcipià, mi sembra che la rassegna cinematografica Alcipià sia quella ininterrotta sempre ogni lunedì. Se non sbaglio. Penso anch'io, non so, sì, il programma, ma penso che sì, comunque il cinema. Hanno una sala, vedi? Cinema vera e, sì, propria, con, sì, le, sì, poltroncine, sì, comode, una roba spettacolare. Sì. Spettacolare, sì, sì. Spettacolare. E vabbè, Sgrana e Traballa. Sgrana e Traballa, quindi, dai. Quindi, giorni, sì, musica popolare. Musica popolare, cibo, insomma, festa, grande. Andare a sgranare e traballare. Dopo, un sacco di birra. Lo sai te? Ce lo, sì, vuoi dire? Vai, 25, bravo, grande Bri. sì. All'Emerson, collettivo Nuovi Rumori. Vai, bravissimo. Concerti qua. Il Fest. Esattamente. Vero. Quindi per tutti i gusti un po'. Esatto. In questa città alla fine... Ah, c'è un'altra cosa interessante in città che non si ferma da ormai 10 anni ed è il torneo organizzato al Cecco Rivolta, l'occupazione del Cecco Rivolta, il torneo Calci dal Basso, sì, che coinvolge tutte le squadre dal basso, cioè basso. L'unica regola era che non dovevano esserci giocatori tesserati. Una società è iniziato sportiva. questa settimana. Io so anche un po' di risultati, so un po' di cose. Faremo un aggiornamento, un approfondimento. Faremo degli approfondimenti. Settimana prossima dovrebbe terminare la fase eliminatoria, la fase di gironi, e quindi faremo sicuramente un aggiornamento. Sì. Reso conto di come è andata e di chi si giocherà dobbiamo le fasi finali lì. Che dobbiamo si concludono che si conclu- la finale sarà il 24 di giugno, che coincide con il compleanno del Cecco, esatto. Che appunto certo, è una bella diretta telecronaca. Ci stiamo lavorando la radiocronaca, ci stiamo lavorando e sarebbe bellissimo se ci riusciamo. Non solo ve lo diremo, ve lo strilleremo negli orecchi per mesi. Comunque nel frattempo che i prossimi appuntamenti siano sabato e domenica prossima dalle 2 per le partite eliminatorie dei gironi. Sì, sei pronto? Sì, sono pronto. Bene. Spacca sono tutto. Bene. Una canzone Pezzaccio. Ce l'hai sempre. We at war. We at war with terrorism, racism, but most of all, we at war with ourselves. God, show me the way because the devil's trying to break me down. Know what the Midwest is, young and restless, or restless. Might snatch your necklace and next these. Might jack your Lexus. Somebody tell these who Kanye West is. I walk through the valley of the shadow where death is. Top floor, if you alone, I leave you breathless. Try to catch it. It's kinda hard getting choked by the Texas. Yeah, and I check the method. They be asking us questions, harassing, arresting. Saying we eat pieces of like you for breakfast, huh? Y'all eat pieces of. What's the basis? We ain't going nowhere but got suits and cases. A trunk full of rental car from Avis. My mama used to say only Jesus could save us. Well, mama, I know I act the fool, but I'll be gone to November. I got to move. I hope Jesus. God, show me the way because the devil's trying to break me down. Jesus. The only thing that I pray is that my feet don't fail me now. And I don't think there's nothing I could do now to right my wrongs. I wanna talk to God, but I'm afraid cause we ain't spoken so long. God, show me the way because the devil's trying to break me down. The only thing that I pray is that my feet don't fail me now. And I don't think there's nothing I could do now to right my wrongs. I wanna talk to God, but I'm afraid cause we ain't spoken so long. To the hustlers, killers, murderers, drug dealers, even the scrippers. Jesus works with them. To the victims of welfare, feel we living in hell here. Hell yeah. Jesus works with them. Now hear me, wanna see thee more clearly. I know he hear me when my feet get weary. Cause we're the almost nearly extinct. We rappers as role models, we rap, we don't think. I ain't here to argue about his facial features, but here to convert atheists into believers. I'm just trying to say the way school need teachers, the way Kathleen need it Regis, that's the way I need Jesus. So here go my single dog, radio needs this. They said you can rap about anything except for Jesus. That means guns, sex, lies, videotape. But if I talk about God, my record won't get played, huh? Ooh. take away from my spins, but you probably take away from my ends. Then I hope it take away from my sins and bring the day that I dream about. Next time I'm in the club, everybody screaming out. God, show me the way, because the devil's trying to break me down. The only thing that I pray is that my feet don't fail me now. Eccoci qua in onda per The Wombat. You can stop the rock, ma ogni tanto si stoppa la connessione. Scusiamo se sta saltando e se queste scuse vengono sentite in questo momento. Se qualcuno esperto di internet ci fosse all'ascolto, venga, ci contatti immediatamente. Venga. Siamo veramente sfracassati i maroni, sì. Perché di questa cosa. Ci solveremo. Immaginiamo voi. Comunque ci sarà il podcast funzionerà e... Le repliche funzioneranno, dunque. Le repliche funzioneranno, dai. E prima o poi anche noi funzioneremo in diretta. E prima o poi quando, sì, sì, quando saremo vecchiacci. Ma forza, Radio energia, Wombat sarà la grande radio del mondo. Poi. Bravo, regista magico. E quindi? E quindi? Dunque. Allora, ringraziamenti effettivamente. Dai. Un po' anche secondo me a tutte le persone che sono venute a questo festival. Certo. E che hanno fatto degli interventi geografici, al di là appunto di quello che si diceva prima della presenza, esatto. E della non partecipazione. Esatto. Non solo scrittore, ma artisti di ogni tipo. Un sacco di artisti di ogni tipo che hanno lasciato anche delle tracce ben visibili, altre meno visibili, ma da cercare e da godere poi, sì. E ci sono dei Ivan Mestre, quindi Ivan che faremo ascoltare la sua lettura del quinto canto della Divina Commedia nelle prossime puntate, accompagnato da Lorenzo Ruggeri. A mio parere è stato uno dei momenti più belli, ve lo faremo riascoltare. Ma Ivan ha lasciato anche delle visibili parole a giro. Insieme a Piger, sì. Esatto. Esatto. Che poi c'era anche nella presentazione, stava dipingendo. Era mentre Lorenzo Ruggeri suonava, esatto. E Ivan declamava i versi, sì, di Dante, Piger componeva la sua opera grafica di, esatto, calligrafia, di lettering. Esatto, miniaturista un po'. Quasi miniaturista, una godura per tutti i filologi accorsi al festival. Sì. Ma poi con che perizia. Bravissimi, sono bravissimi. E li potrete vedere in opere. Polveriera. Yes. Every day. Non vogliamo solo ricordare anche un altro ragazzo. Bravo, sì. Dai. Vai, okay. Spara. Parliamo di Mestre. Sì. Nostro nuovo eroe. Ottimo. Ci ha lasciato degli ottimi disegni, come definirli? Sì, disegni. Direi. Esatto. Opere. Bene, all'entrata troviamo il primo, ottimo James Dean, seduto, caffè in mano, Santo Spirito dietro, bei colori, grandi. Dai, anche James Dean comunque è un personaggio che va ricordato, no? E poi cosa c'è? C'è altri due? Sì, dietro troviamo Tom Waits e Pasolini, la coppia che scoppia, secondo me. E il ragazzo anche ha detto che sembra che ha ripreso la scena dal film di Coffee and Cigarettes, ah, è vero che quello non di Jim Jarmusch, sì, giusto. E poi e un'altra c'è coppia, che non l'ho riconosciuto. Dostoevskij. Però mi sfugge la Monica Vitti. Monica Vitti. Fantastico. E poi c'è un altro personaggio fuori, l'ultimo, misterioso l'ultimo. Che a me è vero perché Nico è andato via e non Nico ci ha detto via. Il nome. Secondo me, quello secondo me, quello secondo te? Secondo me è Kafka. Io non lo però so. Però Nico diceva di no. A Dani sembra Tenco. A voi che cosa sembrava? Non lo so. Lanciamo il contest su Radio Wombat, sì, Foca alle sì, polveri. Dai. Visto che nessuno andate dei... alla polveriera e cercate di scoprire chi è il personaggio che assomiglia molto a Kafka. E diteci un po' secondo voi chi indovina? Un caffè in omaggio. Niente. Un caffè sì. in omaggio. Un caffettino. Un'intervista in diretta qua su Radio Polveri. Come hai fatto a scoprire chi era? Esatto. Ora ci risponderà Mestre. No, Mestre. E lo intervisteremo. Certo. Forse lo faremo ugualmente, anche se non indovina. Forse dovremmo. Però... Anche se non indovina, forse no? Ci è venuta l'idea cosa fare. Comunque stavo immaginando prima Brigida che descriveva i quadri con il papillon, tipo... quella... critica d'arte, no? Famosa critica d'arte. Come quel tutorellone di... come si chiama? Ho capito, Filippo Daverio. Filippo Daverio, sì. Daverio. Ah, lo adoro. Quel gigionesco. Lo addirittura. A me piace molto. Scusa per il paragone ingrato, Bri. Non, era solo... Vabbè, ho capito, ne sa un botto lui, Ho sì, capito, vabbè, sa un dai, botto, ciao. Se bastasse saperne un botto, per... vabbè. Sì, vabbè, sì, buono. Giusto. Sei polemico, ma sono contento questa volta. Sono sempre polemico. Lapo, polemica. Lapo, tanti chiami, bellissimo. Ci... Io ci voglio sentire un'altra musichetta, un'altra canzone. Allora, qualcosa. Facciamo sparo... così, se signori, no, sparaci un pezzaccio che ci dia energia e dopo passiamo ai detti dal mondo. Così, per viaggiare con la mente. Va bene. Energia, portami via. Magic. You have to do it running, but you do everything that they ask you to. Cause you don't mind seeing yourself in a picture, as long as you look far away, as long as you look removed, showered and blue blazing. Fill yourself with quarters, showered and blue blazing. Fill yourself with quarters. You get mistaken for strangers by your own friends when you're passing the night under the silvery, silvery city bank lights. I'm an old man on an eyes and eyes pleasant London. Now you wouldn't want an angel watch, you know they were surprised. Surprised they wouldn't want to watch another old an innocent elegant fall into the unmagnificent lights of the dark. To believe in your heart of hearts, say you have something to wear on your sleeve of sleeves. So you swear you just saw a feathery woman carry a blindfolded man through the streets, showered and blue blazer. Fill yourself with quarters, showered and blue blazer. Fill yourself with quarters. You get mistaken for strangers. Your own friends when you're passing the night under the silvery, silvery city bank lights. I'm an arm and arm in eyes, in eyes grazing under. Are you an angel watch? You know who's surprised, surprised they wouldn't want to watch another an innocent elegant fall into the unmagnificent lights of the dark. You get mistaken for strangers by your own friends when you're passing the night under the silvery, silvery city bank lights. On and on and on, in eyes, in eyes blazing under. Well, you wouldn't want an angel watch, you know who's surprised they wouldn't want to watch another an innocent, elegant fall into the unmagnificent lights of the dark. Guido ci preannunciava poco fa, ci porterà a spasso per il mondo con la sua rubrica Detti dal Mondo. E adesso sigla. Es lo stesso del mondo. Es lo stesso del mondo. Perfetto, grazie Guido. Non sapevo niente, scusateci sempre su Radio Wombat. E dai, che com'era allora, il gioco? Che allora, io te lo chiedo? Game, no, ce lo chiede qualcun altro questa volta. Qualcuno chieda qualcosa, cioè, un paese. Cina. Brigida, tocca a te. Ah no, okay. Cina è vicino. Dicono Cina, Cina. Cina, va bene. Cina alla grandine, ce n'ho un sacco. Alla grandine? Eh? Non dico, Cina ce n'ho tanti. Ah, ok. Allora, siete pronti? Vai, vai. Questo non è male. Vai. Però sposto il microfono perché non ci vedo una mazza con questo... Sì, sei in una posizione strana. Vuoi il mio? Grazie, no, ma no, apri, è sempre gente più veloce, più che altro. Quando incontri un uomo troppo stanco per offrirti il suo sorriso, lasciagli il tuo. Nessuno ha tanto bisogno di un sorriso quanto colui che non lo sa più donare. Boh. Not bad, dai. Qualche dubbio. Dubbio. Io ho dubbi, sì. Poi non è vero, se me i cinesi il cazzo gli frega questa roba. No, sono proprio impostati questa cosa dei sorrisi. Non... In effetti sì. Vabbè, allora, sono così in tanti che magari qualcuno... Tanti sono tanti. Un proverbio vuol dire che tanti lo pensavano. Allora, comunque... senti questo invece, mi ha lasciato sdubbioso. Sì. Sdubbiente. Vai. Vecchio proverbio cinese, cioè aggiunge anche vecchio. Addirittura. Dovrebbe aggiungere saggezza, in teoria. Quindi lo leggerei tipo... Ok. Oddio, sono vecchio. Intingete un dito in una ciotola d'acqua, poi toglietelo e misurate la circonferenza del vuoto che esso lascia. Ecco la misura della vostra insostituibilità. Boh. Cosa ne pensi? Vaffanculo. Quello che mi sei preso male. Non lo so, cioè, guarda, non lo so. Mi aveva lasciato sdubbioso. Anche a me ha sdubbiato e un ottimo supporto psicologico per i depressi che si... Che si sminuisce, si sminuisce, certo. Che non si sente ascoltato, considerato dal mondo. Noi siamo Pizzo molto in grande forse. Solidarietà. Il Pizzo è pronto, cioè ce l'ha in canna proprio. Siete tutti ce l'ha in canna. Dai. Se questo ti ha sdubbiato, fammi capire, quello prima ti era piaciuto. Quello dubbio sì, quando si parla di sorrisi polemica. Sono sempre contento. Continuiamo con questa scena. A me comunque tira fuori il tira fuori un bel dibattito questa scena. Cioè ti vedi proprio cinese. Ma cinese non ce l'ho, tesoro. Ce l'ho. Disagio, cioè, no, allora, ne ho uno se vuoi in versi, un po' lungo. Battute razziste. Oppure ne ho cercando. Ne ho un altro sul facciamo l'amore. Una rubrica sulle battute razziste. No, non volevo quello. No, non voglio no, chiamo, luoghi comuni voglio e stereotipi razzisti. No. Why not? Va bene, allora ti dico questo. Va bene, va non c'è bene, il dice loro. No, questo qui una versione un po' romantica cinese. A ogni singolo filo d'erba è destinata almeno una goccia di rugiada. Questo è già più cinese, mi è piaciuto. Find your love. Immagini la risaia. Molto più cinese. Questo è molto cinese. Sì, ma sì. Insomma. Sì, bello. Da cosa lo deduci? Qual è la la caratteristica, la cinesità di questo detto? Cioè, che è corto, tipo, cioè, quindi non so, non sapevo, poi a farlo con l'idea. Quindi ci metti poco tempo, con un videogramma sapelle fatto tutto il detto. Fatti molto per immagini. Sì, sì, per immagini, così, una goccia di rugiada, così, cioè, non lo so, Verde, più cinese. Va bene, va bene. Allora anche per questa settimana è fatta. Avete una richiesta per settimana prossima? Qualcosa di incredibile. No, non ce l'abbiamo. Paese assurdo. Non ce l'abbiamo, io non ce l'ho. Allora, senza Marco, questa rubrica perde di vitalità. È vero, è vero. Questo è vero, Marco, sei molto più entusiasta. Comunque, settimana prossima vi annuncio che tornerà il Lume dei Balcani. Ok, lei è già 25 settimane che l'annuncio. No, l'ho fatto. Ormai siamo in questa modalità. Come l'internet, come la nostra puntualità arriverà un giorno. Internet, puntualità. Ci abbiamo un sacco di promesse non mantenute. Aver già caricato tutti i postcat di Radio Wombat. Postcat di Radio Wombat del Festival di Letteratura Sociale. Dalla tua voce sentito stamattina. Ah, l'hai sentito in registrazione. A un certo punto ci sei te, ha offerto e ci sei te che dici: domani ci saranno tutti i podcast pronti su Radio Wombat. Non è vero. Mentiroso. Siamo molto più pigri di quanto facciamo sembrare. Sì, diciamo ogni tanto si può anche dormire. Esatto. E quindi con molta calma faremo tutte queste cose che promettiamo. Esatto, comunque. Settimana. No, comunque l'Ura dei Balcani ci sarà. Va bene, va bene, va bene. Lo giuro. Va bene. Va bene. Quindi potrei chiederti magari un proverbio appunto del o dei Balcani. Ok, eh? Grazie. Per esempio, un proverbio, mi piacerebbe sentire un proverbio della Macedone. Della Macedone, bravo, Macedone, che okay. Conosciuto. Ma invece io ho sentito ricordo, un'altra, un'altra voce fra i corridoi, circolare fra i corridoi. Era la tua coscienza. Bravo. Insieme a quella, quella sei che pazzo. Mi rincorreva. C'era anche questa cosa, questa... Tu sai qualcosa in più di un nuovo programma, una nuova rubrica? C'è una voce che, sì, sì, che gira per i cunicoli del Wombat. Questo e poi attraverso il Festival Elettrotrans Sociale poi si è espanso per tutto l'etere. Fin dello spazio, infatti, sarà una trasmissione di fantascienza. Cioè tu stai adesso annunciando una nuova trasmissione, un'altra attenzione. Un'altra quindi... new transmission. Radio Wombat. Boia. Guarda, è peso, bello. È roba. È roba. Molto attento, c'è molto stata... curioso. Sì, sì, sì, cioè la redazione già esiste, si sta allargando, già ha iniziato a tirare fuori la prima puntata. Già stiamo lavorando sulla prima. C'è stata anche la prima riunione, sì, è andata bene. È andata molto bene, ci hanno provato gli sbirracci a non farvela fare, ma... ce l'avete fatta comunque. Lasciamo stare. Parleremo di fantascienza in senso lato, tendenzialmente partiremo da dei temi e poi da lì cercheremo di panare tutto il mare magnum di produzione certo. Sia cinematografica che letteraria che videoludica. Si parlava anche di videogiochi o di gioco di ruolo, infatti volevo ricollegare questa cosa che stavi dicendo a diverse un paio almeno, quantomeno, presentazioni che ci sono state nei giorni scorsi e che hanno parlato sempre riguardando l'immaginario, cioè la costruzione di immaginari. Sì. Quanto il fantastico, il fantasy e la fantascienza abbiano creato un enorme pozzo di... immagini, di figure, di personaggi, di cliché in certi casi, in altri no, ma un sacco di interessanti spunti, cui uno è partecipato direttamente, è stata una delle mie presentazioni preferite, tra l'altro. Devo dire sì, no, bravi, sono stati molto bravi proprio i ragazzi che hanno presentato, cioè i ragazzi... diciamo nominiamo certo. E Vincenzo Marasco diciamo che cosa hanno presentato appunto la loro insomma una raccolta di saggi sì. Chi ha potuto sentirlo in diretta è viva, però magari davvero questo certo. Può anche valere la pena. Era interessante, in questo testo abbiamo presentato di tutti i mondi possibili 9 saggi attraverso il fantasy sì. Che proprio già dall'introduzione a cura di Licia Troisi si parla del fatto che il fantasy sia poi in realtà una anche molto interdisciplinare tra virgolette sì. Che prende anche poi la fantascienza, infatti gli stessi relatori poi tiravano in ballo all'interno dei loro discorsi legati all'immaginifico, insomma quello dicevi tu, la fantascienza. Okay. Quindi in realtà anche noi nella nostra trasmissione poi non è che rimarremo per forza legati alla fantascienza tout court, legata appunto allo spazio, alle astronavi, certo. Ma la fantascienza poi dopo è un mondo, è un esatto. Mondo che è in infatti, in espansione. Una cosa che mi è piaciuta e che vorrei citare che è stata detta durante quella presentazione da Edoardo, che citava Tolkien, sì. Riguardo all'accusa di evasione che è stata spesso affibbiata escapismo. Alla fantasia, quindi al genere fantasy e anche alla fantascienza, ovvero lui Tolkien scriveva, parafraso, che c'è una bella differenza fra la fuga del disertore che abbandona la battaglia e l'evasione sacrosanta del prigioniero di certo. Un campo di concentramento, certo. Ma di qualsiasi prigione possiamo certo, dire, certo, anche. Mentale, fisica, assolutamente. Che figata! Che figata, che figata. Davvero. Quindi niente, per questa trasmissione ci sentiremo. Sì. Secondo me, presumibilmente, deve passare ancora un mesetto perché. Tutta l'idea. Questa belle hard, insomma. Sì, sì, perché comunque non è facile. No, nel no, senso, certo. Noi ci siamo messi lì a tavolino e abbiamo detto: bene, come si fa? Panico. Non cosa è automatico, scegliamo, vero. Cosa diciamo, cosa non diciamo, cosa mettiamo, non dobbiamo essere banali. Certo, noi se qui siamo a blaterare, effettivamente è un po' più semplice forse fare questo salotto sì. Divertente rispetto a una. No, ma dico davvero, rispetto a una trasmissione, come sono la maggior parte delle trasmissioni poi su Radio Wombat, che hanno un tema, che hanno una direzione e che vogliono portare delle. Esatto, però, e poi finisco qui le anticipazioni e finiamo, però abbiamo scelto poi, abbiamo visto affrontando la questione proprio un tipo di approccio più di ragionamento collettivo. E quindi ognuno porta anche le proprie letture, esperienze, fonti e da lì poi abbiamo già il primo argomento, però non vi dirò. Bravo. Assolutamente. E non vi dirò neanche la... Il secondo, giustamente. No, niente, abbiamo già la sigla, abbiamo già un nome provvisorio, ma che probabilmente sarà quello. Insomma, sì. Niente. C'è, questa cosa c'è ed è reale, non è solo una voce, niente, ci siamo molto curiosi. Ora io siamo anche molto stanchi, sono 6:30 qui nel mondo reale. Manda una canzoncina. Manda una canzone e poi salutiamo il mondo. Il mondo. Ciao, ciao mondo. Scusa mondo. Ormai sì, sì. Alla fine della nostra trasmissione. Sì. Che ci diciamo? Ci diciamo che gli appuntamenti li abbiamo già detti. Radio Wombat riprende il suo palinsesto classico, quindi che potete trovare direttamente sul sito, e che per questi giorni, ultimi giorni, era stato interrotto, quindi dalla prossima settimana torneranno anche Mortal Wombat e tutte le altre trasmissioni che questa settimana hanno saltato un turno per il festival. E noi ci sentiremo sicuramente lunedì prossimo. Sicuramente. Altre sicurezze abbiamo? Lulio dei Balcani. Sì, un'altra? no, stasera tramonta il sole. La morte. La morte anche, vabbè. La morte non va sottovalutata. Ok, con questa bellissima chiusura Memento Mori ci possiamo davvero salutare a questo punto. E grazie per se ci avete ascoltato con questi problemi. Un po' di pazienza, scusate. E c'è il microfono spento, tesoro, se vuoi puoi parlare in questo qua. E bella, e bella, ciao, bella, ciao ragazzi, buona, buona. Wombat, wombat. Wombat, wombat. Go hell, Paul Berry. Radio Bomba. Ero spaventato, ma il tenente Dan era impazzito.